Mix 24 di Giovanni Minoli. Lo vedete quel giovane che sta per sposarsi? Beh, quello non sono io. Io sto qui. E chi si muove? Vi assicuro che questa distanza tra me e il matrimonio ci sarà sempre. Se un uomo ha più di 30 anni ed è single, ha qualcosa che non va, è darwiniano. La natura li elimina perché non propaghino la specie. D'accordo, e noi allora? Abbiamo gusti difficili. Give it to me, amore. Ora ti insegno come essere single. Il punto dell'essere single è gustartelo. Se sei single, il mondo è il tuo buffet personale. Give it to me, amore. E allora, se ci sta, ci sta. E se non ci sta, avanti un'altra. Io non sono un sentimentale, un romantico. Io sono un uomo pratico. Io non sono di quelli che sospirano sotto le finestre della propria ragazza o le telefonano alle due di notte. Dice, sai, c'è la luna, le stelle, vieni qui. Secondo me è perché le donne vogliono solo un uomo che le salvi. Non potevo non chiedermelo. Dentro ogni donna single, determinata e sicura di sé, c'è una delicata e fragile principessa che aspetta di essere salvata. Dunque, il popolo delle persone sole, i single, secondo l'Istat, sfiora il 40% della popolazione. Su questa nuova categoria si sta orientando anche il mercato, dai supermercati ai viaggi, dalle case per scapoli ai ristoranti. Il nuovo target da conquistare sono loro. Ma se single per scelta, per obbligo, per vantaggio, per vanità, sono più gli uomini o più le donne, che età hanno? Ecco, Antonella Baccaro, giornalista del Corriere della Sera, da 5 anni cura il forum supplemento single sul Corriere.it. Allora, ma chi sono le persone che frequentano il tuo forum? Ma all'inizio pensavo che fossero persone tra i 30 e i 40 alla ricerca, cioè pensavo che avrebbe raccolto soprattutto l'intenzione di molti di cercare anche attraverso gli strumenti come un social network o un forum o l'anima gemella. E invece poi? E invece poi è diventato un posto in cui si sono accavalate le riflessioni e anche un po' gli sfoghi delle persone più disparate. Certo. E la sorpresa delle sorprese è stata trovare insieme a tanti single veri, cioè quelli che definiamoli così non hanno una relazione stabile, anche tante persone sposate. Questo ci arriviamo. Ecco, in questa ricerca infinita dell'amore sostanzialmente, prevale l'allegria o la frustrazione? Beh, diciamo che c'è una buona parte di frustrazione, soprattutto quando si tratta di elaborare un passato che non è stato molto semplice. Certo. E che comporta poi quella solitudine, cioè il solitudine è il portato di una vita relazionale molto povera. Spesso. Cioè. Ecco, ma in questi 5 anni, da quando hai aperto il forum, i single sono cambiati? Ma i single mi sembrano più portati a considerare, per esempio, gli strumenti della tecnologia, ecco, questo è un aspetto che ho riscontrato, ormai in maniera abbastanza tranquilla, cioè mentre prima si chiedevano se nell'incontrarsi, nell'incrociare le esperienze, la tecnologia dovesse essere bandita, adesso invece ci si adattano tranquillamente. L'accettano come uno strumento. Ecco. Certo, e anche nel forum è successo che alcuni si siano incontrati poi alla fine. Ecco Antonella, i single tu li descrivi come un popolo di invisibili, non perché non si vedono, ma perché nessuno li vuol vedere. Ma in che senso nessuno li vuol vedere? Ma io penso che nella nostra società ci sia una ricerca ossessiva della felicità, ed è il primo strumento per trovarla per molti è l'amore. Credo che sia, adesso dirò una cosa enorme, uno sentimento un po' sopravvalutato, l'amore di coppia nella nostra società, quasi fosse, diciamo, l'araba fenice, la cosa che bisogna cercare a tutti i costi, è la cosa impossibile da trovare. Questo comporta che chiunque non l'abbia si sente frustrato, a prescindere da come si vive poi la coppia, perché la coppia vuol dire tante cose. Io dico che lo stato d'animo non può essere determinato dallo stato civile. Certo. Questo è quello che penso io, però. Ecco, ma eppure il mercato è molto interessato a vedere e conquistare questi single, perché ci sono viaggi, case, supermercati che sono pensati per loro, individualisti per status, sono però consumatori molto appetibili. Sì, anche qui c'è stato forse tutta una campagna che li ha un po' ridisegnati come delle persone un po' spendaccione, un po' in grado di così fare la differenza anche per quanto riguarda, non so, gli acquisti. Però bisogna anche pensare che una buona parte di questi single sono single di ritorno e quindi vengono fuori da storie familiari che comportano invece un budget molto più basso di quanto non si pensi. Certo. Quindi anche qui l'icona del single è un pochettino va rivista. Sì, va rivista. Ecco, ma la famiglia tradizionale viene sostituita dalla rete degli amici quando si diventa single? Sì, assolutamente sì, questa è una cosa che è diventato quasi un trend abbastanza accreditato, anche perché, anche qui mi permetto di dire che siccome non siamo per nessuno, diciamo, in un momento di grande espansione, il condividere anche delle cose con gli amici non è soltanto un fatto, diciamo, anche sociale, economico, sociale anche economico. Ed economico. Partire dalla casa, Certo. Ecco, Antonella Baccaro, tu scrivi che i single si nascondono anche tra le persone sposate. Cosa significa? Beh, mi riallaccio a quello che dicevo prima. Se è vero che l'aspirazione di molti è quello di trovare un amore vero, e questa idealità, questo amore neoromantico che si cerca, è proprio di tante persone che restano sole perché non trovano poi qualcuno che pareggi l'ideale che si sono fatti, queste stesse persone a volte intervengono anche all'interno di una coppia, si ritrovano in una coppia, ma in quella coppia, quando no, diciamo, si è spenta la prima fase dell'amore, che è quella eccitante, che è quella passionale, non ci si ritrovano più e cercano di ripercorrere lo stesso percorso adolescenziale per ritrovare la stessa emozione del primo amore. E dunque ecco che si crea anche una crisi nella coppia, perché se, certo, uno non sta bene nella coppia e cerca altrove e non cerca soltanto la storia momentanea ma il grande amore, è un grosso problema. Certo, ma sono più quelli che restano in coppia per rispettabilità sociale o per impedimento economico? Questo è il punto. Cioè, prima la rispettabilità sociale faceva il premio su tutto, evidentemente. Certo. Adesso è un po' più un fatto economico e a volte anche un fatto di profonda insicurezza, se vogliamo, perché poi questa situazione determina una insicurezza che poi porta qualcuno ad accontentarsi e a soffrire all'interno della coppia, semmai. Ma la crisi della coppia e la nuova solitudine, diciamo, singlitudine, sì, può essere letta anche attraverso la lente dell'allungamento della vita e della lunga giovinezza anche fisica? Sì, perché diciamo la cosa paradossale è che la maggior parte delle persone che sono interessate a quello che scriviamo tutte le settimane sono persone che sono singolo di ritorno, generalmente uomini, generalmente sulla mezza età. Perché uomini? Perché gli uomini, diciamo, un po' più la scienza ha donato, diciamo, una seconda vita e una seconda possibilità al sentirsi ancora giovani, ancora in grado di innamorarsi, di vivere appieno l'amore, e quindi sono quelli che più facilmente si ritrovano poi sul mercato. Ecco, l'allungamento della vita naturalmente dà a tutti una seconda possibilità, una seconda giovinezza, un'illusione? Probabilmente sì. Senti, ma in una società che ha conquistato un benessere diffuso, comunque, anche se è un momento di crisi, lo spazio che dedichiamo sempre di più al wellness, cioè allo star bene, è una ricerca di felicità personale che diventa anche un'ossessione? Sì, secondo me è diventata un po' un'ossessione, come quella della bellezza è un'ossessione, cioè ricercare comunque l'appagamento attraverso forme estetiche che poi alla fine lasciano il tempo che trovano e sicuramente sono frustranti nel momento in cui anche l'aiutino, diciamo, non basta più, e a quel punto ci si ritrova un po' forse, diciamo, trasformati fisicamente in una maniera a volte un po' patetica e senza una seconda possibilità. Quello che io trovo un po' avvilente è che non si riesca a far pace col fatto di essere vecchi e di anche valutarne le possibilità, la ricchezza da qualche parte, la profondità anche e la maturità. Ecco, ma per concludere, il single per definizione, quelli in cerca del sogno romantico, uomini o donne che siano, esistono sempre? Sì, esistono sempre e sono, diciamo, forse l'essenza più specifica del single, il single per antonomasia, quello che pensa che debba esserci un principe azzurro o una principessa sul cavallo bianco, passa tutta la vita a cercarlo e magari fa passare anche delle buone occasioni. Però non voglio lasciare con l'amaro in bocca di tanti single che mi scrivono e che sono invece abbastanza contenti, perché io sono dell'avviso, ed era questo lo scopo con cui abbiamo iniziato il nostro dialogo di 5 anni, che in questo stato si possa anche vivere serenamente e con pienezza, non sopravvalutando l'amore di coppia, ma rivalutando le varie forme d'amore che possono esserci nella vita e la bellezza che c'è dovunque nella vita, non semplicemente nell'amore di coppia. Quindi voglio dire, saluto tutti quei single che invece vivono molto bene il loro stato, se secondo me ci sono. 800 24 00 24 numero verde, 348 349 238 6666, l'SMS, ecco, per intervenire in diretta, raccontare le vostre esperienze se avete il desiderio di farlo. Intanto Mario Pietrangio, single di ritorno, single perché la ricerca dell'amore, 40% degli italiani espliciti o nascosti, sapevate? Beh, è un dato abbastanza Io lo immaginavo abbastanza, tu? Sì. No, io no. No. No, io penso, mi sono sorpreso. Tu, Pietrangelo? Intanto vorrei segnalare che una nostra ascoltatrice, Chicca Maraffa, dice che il single adulto mai sposato che ha superato i 40 anni è il capo difettato nel prontuario, diciamo nell'offerta del mercato. Insomma, c'è qualcosa che non va. Sì, e c'è qualcosa che non va, certo, certo. Perché comunque lo zitellaggio, a maggior ragione nel contesto maschile, è il segno di un disagio. No. Vogliamo dire no, tutto? Io non sono d'accordo. Ma no, ascoltami. No. Allora, la solitudine è una disgrazia. Questo sì. E la solitudine è un'emergenza sociale. Anche. Facciamoci caso, soltanto nelle società vecchie, e tu Mario lo dici continuamente, ed è così, l'Italia è una nazione molto vecchia, si è soli. E la solitudine non è soltanto, come era nell'introduzione, l'allegria dell'Alberto Sordismo, è l'altra faccia, che è la devastazione di una condizione ci esistenziale sono disperata. Due, però posso. Ma chi lo può fare, il giovin signore? Ma non è vero. Si diventa ridicolo. No, aspetta, aspetta. Allora, dal punto di vista della lettura esistenziale, quella di Buttafuoco, io la sottoscrivo. Però... c'è solo un problema, o meglio, un'opportunità. Essere soli, accompagnati. E io penso che questa sia una libera determinazione di molti ascoltatori di Mix 24. La variante più interessante è la variante divertente. Soli ma accompagnati. Soli ma accompagnati. Quindi non soli. Insomma. Ma questo esiste, caro Mario, soltanto nei film, nella letteratura. Ma poi la realtà è fatta di ospizi. Oggi per una volta io sono il cosiddetto gaudente e anche un po' romantico, se vuoi, e Buttafuoco assume la parte del realista cinico che non avevi mai sospettato. Vabbè, a parte questi scherzi, in questo quadro in cui comunque sembrano esserci tante tipologie diverse di single, forse si può trovare qualche tratto comune. Per esempio, tu Pietrangelo, credi che sia... la vita a portare a essere singolo è una scelta fatta a priori? Cioè, è la vita. Questo qua, no, io non ci vita. Credo che sia una scelta fatta a priori. È la vita. Ecco, detto questo, però, Mario, quanto anche una, quando una legislazione più agile come quella del divorzio breve che è stata introdotta è una maggiore accettazione anche sociale dell'essere soli, hanno facilitato la fuga dei single nascosti nelle coppie, quello stare insieme allora, da soli, come dici ecco, tu. Allora, qua entriamo in un registro serio. Dunque, il divorzio per tutti è un dolore, una devastazione. Certo. Chi lo fa con leggerezza non evidentemente aveva veramente sbagliato tutto, e capita, per carità. Vi sono i pro e i contro in questo dibattito. Alcuni sostengono che il divorzio breve abbia facilitato la disgregazione, la polverizzazione della famiglia, che in fondo è l'architrave della società, anzi non in fondo, che è l'architrave della società. Però d'altra parte io conosco amici, soprattutto colleghi, perché questo è un mestiere molto difficile che conduce spesso a separazioni, che a cui il tempo ha logorato il tempo dell'attesa del divorzio, e quindi li ha logorato completamente. Vabbè, ma adesso è più breve. Quindi accorciare in realtà, secondo me, è stato un ci bene. Ci sono tanti ascoltatori che ci scrivono. Sì. Elena, una fan naturalmente di Pietrangelo, certo, semplice, saggio, sempre grande, Buttafuoco. Concordo. Io invece sono single, cinico, perché cattivo. Sto bene per ora, dice Mario. Sono single, fiero di esso, tanto il giro è solo pieno di, insomma, donne incerte. Preferisco stare da solo di gran lungo, e i miei soldi sono più al sicuro. Posso la mette molto sul concreto. Però ecco, questo no, cioè levarsi il sogno no, Giovanni. Su questo sono d'accordo con le con donne single sopra i 40 anni bisogna cambiare il nome, restano zitte, insomma, vabbè. Dai, insomma, più o meno, ecco. Tra le tante storie raccolte nel forum del Corriere.it, che ricordo da 5 anni Antonella Baccaro tiene sul Corriere della Sera, dedicato ai single, c'è quella di Flavia. Io non mi accontento del primo che passa per strada, ecco. Se devo mettermi a spendere energie, voglio che sia un uomo che abbia degli interessi molto simili ai miei e possibilmente abbastanza magro, ecco. Io non mi sono mai sposata, ma non mi sono mai sentita una zitella. Qui in Romagna una donna che prende l'uomo purché sia dello scalotto è sempre stata tacitata di essere una che o aveva tanti peccati da farsi perdonare oppure una che alla fine di tutti i guai aveva preso un tot di bidone per non rimanere da meno, si era buttata sul primo che trovava. Spero che possa un giorno arrivare un principe azzurro con un po' di artrite sul suo cavallo bianco. Ecco, Gianna Schelotto, psicologa, dedicato al singolo un saggio Un uomo purché sia donna in attesa dell'amore. Ecco, dottoressa Schelotto, la signora Flavia ha sentito, ha detto che spera ancora nel principe azzurro anche con un po' d'artrite. Ecco, ma siamo sicuri che siano proprio le donne le romantiche più ostinate, eh? Sì, ma a un certo punto forse non si tratta nemmeno più di romanticismo, diventa qualcosa di più profondo e anche di più doloroso. L'idea di non essere amati in generale forse se la trascinano dietro fin da bambine, ma diventa un pensiero fisso. Ecco. Infatti io le ho battezzate le donne girasole, nel senso che a un certo seguono punto... Seguono la luce. Delusione dopo delusione, finiscono col dimenticare tutte le altre cose interessanti, buone, che hanno fatto sul piano del lavoro. Ecco, le donne però, dottoressa Schelotto, le donne però di oggi sono anche più libere, più consapevoli, più autonome, più sicure di sé. Secondo lei questa condizione le rende un pochino più felici? E questa è la domanda. Secondo me hanno tutto questo, ma non sempre riescono ad essere più felici, proprio perché nonostante tutto quello che hanno conquistato nel lavoro, nella carriera, ma anche semplicemente nel sociale, a poco perde di valore perché si sentono svalutate dal fatto che perdono sistematicamente i loro fidanzati, sentimenti, ecco. Elizabeth Day, che è una giornalista del Time, racconta di professioniste senza legami, quindi corteggiatissime da marketing, da politica. Insomma, l'essere single per una donna può essere anche un'opportunità in più lavorativa oppure no? Sì, certo, però se questo essere single ha a che fare con una scelta e non con una collezione di rifiuti e di fallimenti, certo, nei rapporti con gli uomini. Ma nelle donne scatta sempre l'orologio biologico? Adesso molto meno, come dire, l'orologio biologico si è molto dilatata. Si è modificata anche la possibilità. Sì. Voglio dire, le cinquantenne di oggi non hanno niente a che fare con le cinquantenne di vent'anni fa. Certo. Sono ragazze, mentre certo, un tempo giravamo noi psicologi a fare corsi per tranquillizzare le donne in menopausa, ma la menopausa sembra che non esista addirittura più dal punto di vista psicologico. Senta, ma gli uomini invece cosa scatta? Cosa li fa rinunciare ai vantaggi di essere single? Forse gli antichi sommessi privilegi di cui ancora godono nel rapporto con le donne. È l'indulgenza che le donne dedicano loro, no, ormai non dura più tanto a lungo perché dopo un po' le donne si stancano, però è ancora molto vasta l'area di indulgenze di cui godono gli uomini. Senta, dottoressa Schelotto, oggi siamo di fronte però a nuove tipologie di famiglie, nuove forme di convivenza, come quella di Raffaele e Francesca. Senta, allora, noi abbiamo trovato una soluzione magica: abitare vicini ma abitare separati. Facendo così abbiamo salvato tutto. Mentre lei si prepara, le preparo un po' di frutta sbucciata, un po' di noci, un po' di mandorle, e no, queste piccole cose che sono poi diventano anche quelle delicatezze amorose. Poteva finire tutto, per quello che abbiamo sofferto e per quello che è stata poi la nostra vita di rinunce, di sofferenze, di tristezze, di malinconie, non si poteva distruggere questa favola straordinaria, perché abbiamo trovato un equilibrio. Quindi questa metà da single è importantissima. E io quando la conobbi le scrissi una piccola poesia di tre versi: a luna piena d'indociel blu, a mare indo silenzio la lampara, e tu goccia d'estate in dasti braccia. Francesca per me è sempre la mia goccia d'estate. Senta, un amore profondo che difende e mantiene i propri spazi, però questa può essere una soluzione per durare, eh? Con questo sistema si evita l'usura della quotidianità, i piccoli fastidi di quello che fa lui o di quello che fa lei che non va bene all'uno o all'altro. E devo dire che questo sistema comincia ad essere diffuso. In una storia che racconto nel mio ultimo libro c'è proprio la storia di due ragazzi che hanno un incidente, nel senso che lei rimane incinta, ma non si amano, non sono innamorati, sono soltanto amici, e quindi decidono di avere questo bambino, ma di vivere ciascuno per la propria strada e di fare i genitori, ma non i fidanzati o il marito e la moglie, non i coniugi. E quindi, insomma, nel suo ultimo libro, appunto, che ha citato, chi ama non sa a tenere insieme le nuove famiglie, sono più o meno le stesse cose che permettono a quelle tradizionali di durare. Il problema sono i sentimenti e le emozioni che circolano all'interno di questi gruppi, perché si sono incontrati, perché hanno avuto questi brevi o lunghi percorsi insieme. Tutto quello che resta di questo può tenere insieme anche le famiglie liquide, come direbbe Bowman, e quindi può allargare i tipi di famiglie ai quali siamo abituati. Quindi sostanzialmente alla fine non cambia niente, secondo lei? Dal punto di vista della capacità di amare, di scambiarsi sentimenti ed emozioni ed empatia, soprattutto la capacità di capire l'altro perché si mette nei panni dell'altro, da quel punto di vista è cambiato ben poco. Noi ci scrivono in molte sue donne. Noemi da Roma: buongiorno, io sono single di ritorno da 6 anni, ero più sola da sposata, cosa che non auguro a nessuno. Ora sono sola ma non sono triste. E poi Marisa per esempio dice: forse oggi le donne spaventano gli uomini che sono più deboli e romantici. Luca da Lucca. Luca, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho la trasmissione e volevo intervenire in questo senso. Dica. Che la solitudine non è una disgrazia, ma è una patologia, come tale va curata. E la solitudine è la migliore compagnia per chi sta bene con se stesso. Non è assolutamente vero che la solitudine possa essere una disgrazia. Vabbè, insomma, appunto, questa è la sua opinione. Grazie, Sergio da Lodi. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo approfittare per dare una piccola testimonianza. Dica. Sono sposato da 17 anni, fidanzato da 4, quindi 21 anni che vivo con questa persona fantastica, con mia moglie, con cui ho avuto 2 bambine. E volevo dire che il matrimonio è bellissimo, che l'amore è bellissimo, e però il problema è che secondo me non c'è voglia di costruire, non c'è voglia di impegnarsi, non c'è voglia di sacrificarsi. Una testimonianza importante che mette allegria da speranza in qualche modo. E abbiamo ancora Ivan da Novara, buongiorno. Buongiorno Ivan. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Niente, io volevo porre una domanda. Io ho 43 anni, mia moglie ne ha 20. Abbiamo un bambino di 10 mesi e una bambina in arrivo. Ecco, io la mia domanda che volevo porre è questa. In un futuro potrebbero nascere delle complicanze attraverso il nostro rapporto, oppure dobbiamo basarci sul vecchio proverbio che dice l'amore non ha età? L'amore non ha età, è meglio pensarla così in ogni caso, beati mi pare. Voi. Beati voi, auguri, auguri, auguri. Ecco, insomma, Mario, dimmi, prossimo presidente degli Stati Uniti al futuro dell'Europa, sulle grandi scelte, crede che il voto dei single potrà essere un voto decisivo? Cioè c'è un voto che può essere il voto del single oppure è una banalità? No, non è una banalità, è un cluster, si dice così, di ricerca nelle campagne elettorali. Il voto dei single in America è altamente considerato come elemento, come fattore determinante. Vabbè, quindi c'è elettorale. Una caccia al single. Accidenti. Chiara Gamberale nel suo ultimo libro, adesso, ha un punto di vista interessante su scapoli e coppie. Io ho sempre pensato che c'è un vizio nel linguaggio. Quando stiamo con qualcuno, siamo impegnati, mentre quando siamo soli siamo liberi. E a me piacerebbe un mondo in cui si dicesse sei libero o impegnato. Sono libero proprio perché sto con una persona che sono libera di amare. Ecco, diciamo che forse è proprio questa la scommessa di quando ci si innamora dopo essersi fatti male. Ecco, Pietrangelo, c'è questo vizio di linguaggio che in qualche modo poi determina, nomina, sunt. Certo, il linguaggio non è mai innocente. Appunto. Però, bella questa notazione della Gamberale. Molto. Brava. Sì. Quindi brava. Mi limito ad un applauso. A un applauso alla Gamberale, ecco. Pieraccioni invece ha tradotto così Single. A me non mi fregate. Io vivo bene, benissimo. Come faccio? Sono single, single convinto. E adesso vi spiego i vantaggi di questa vita. Avete presente non dover rendere conto a nessuno? Ecco, questo è il primo vero vantaggio. Ho voglia di correre? E corro. Ho voglia improvvisamente di correre indietro? E corro indietro. Mi viene voglia di stare un'ora a salutare i passeggeri di un aereo che vanno chissà dove? Ciao! Ciao aeroplanino! E li saluto. E poi voglio fare una cosa, la faccio. Voglio pensare una cosa, la penso. C'ho sonno, vo a letto. Ho voglia di fare l'amore? Chiamo Mirna. Mirna è l'amante perfetta. Fidanzata da 6 anni con uno di Belluno. Ma ha detto che a maggio si vuole sposare. Matrimonio è antico, è arcaico. Io sono per stare ognuno a casa sua. Io vo a nozze solo con me stesso. E non ho paura della solitudine io. Io vo anche ai cine da solo. Vo anche al ristorante da solo se mi gira. Ma d'altra parte anche Dio era un single, o no? Insomma, per risposta a tutti i miei amici fidanzati o sposati e in eterna crisi con se stessi e con le loro donne, io avevo calato l'asso della libertà a oltranza. E stavo bene, parecchissimo bene. Secondo voi sono egoista? Sono un tipo egoista? Sì, sì, sì, sono egoista, sono egoista. E questo è l'essere single dal punto di vista di Pieraccioni. Ci sono ancora degli sms interessanti. Alessandro da Udine, uno particolarmente interessante. Dice Alessandro, bisogna imparare a litigare. Penso che sia una bella sintesi di questo nostro discorso. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, oggi che cosa ci fai sentire? Eccola. Oggi in metropolitana c'era un ragazzo che ruotava su se stesso, cantava e ogni parola gli diventava vortice, poi pioggia di melodia da accogliere a braccia aperte come una preghiera bagnata di gioia. È una canzone in onda con un verso d'amore nel fondo del bicchiere. Ha chiamato Rumi, ha chiesto questa canzone da dedicare alla luna con un messaggio: il paradiso è tutto il cuore. Continuano a scrivere, di tutto, no? Ma insomma, ce n'è per un'altra puntata, la faremo. Qualcuno dice bisogna avere voglia di litigare, altri dicono: io ho sempre pensato che prima di star bene in coppia una persona deve star bene da solo. Conosco molti che trasportano i loro problemi, il loro malessere nella coppia, vabbè, tutte cose. Biagio, c'hai ragione, vai con la bolla, Mario. Dai, Ale. Io sono in fissa con i Daft Punk di nuovo, quando arriva la primavera e poi scoppia l'estate. Questo è un gruppo che fa ballare, fa riflettere, grande musica, sono i veri musicisti di questo periodo. Senti che bello. Sono di Parigi, lo sai? Sono di Parigi. Sì, sono due DJ. Allora. Sono due DJ, ma sono due grandi musicisti. Riescono a comporre anche sinfonie. Ancora un po'. All right, vabbè, Brexit. Allora Giovanni, la campagna referendaria inglese è veramente fantastica, molto diciamo bella, la verità. Sì, è sì, molto ho bella. Visto gli spot molto belli. Ecco, infatti li commentavamo assieme, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori anche la tua opinione da uomo di televisione su questa campagna dal punto di vista televisivo. Questa campagna dal punto di vista televisivo è molto efficace, è una campagna molto semplice, sono quattro reduci della Seconda Guerra Mondiale con delle facce molto forti, sì, molto interessanti, che raccontano come all'Inghilterra è sempre andata male quando è stata lontana dall'Europa, ma molto forte, a testimonianza cioè di chi la sa perché l'ha vissuta sulla pelle. Pietrangelo, volevi intervenire su questo, ti vedevo No, stavo accigliato. Pensando che in fondo l'Inghilterra, pur vincendo la guerra, ha perso tutto. Cioè tutto? Beh, ha perso l'impero, certo. Ah, l'impero. Ha perso certo. L'impero. Solo una cosa, una notazione, diciamo, di cronaca. Wall Street, la City. L'ha recuperato bene, in un'altra maniera, diciamo, sì. No, solo una notazione. Il cancelliere dello scacchiere, Osborne, che sarebbe il titolare del tesoro, ha dato un numero, secondo me, che farà riflettere anche l'Europa, perché solo nella finanza, appunto, hai fatto bene a citare la City, Giovanni, anni, ci sono 285.000 posti di lavoro nel Regno Unito legati strettamente all'Europa. Sai, il leave, come si dice in questo caso, insomma, secondo me ha degli effetti enormi. Vediamo. Salamino. Sondesti i sondaggi. Forza Italia, grazie a Berlusconi, torna centrale nella scena. Perché il centrodestra, unito a Milano grazie a Stefano Parisi, sparpagliato ovunque, anzi frullato, trova comunque in Berlusconi il baricentro che fa centro anche per il centrodestra. Oh, senza più Dudù, senza più i fasti della sontuosa sede di San Lorenzo in Lucina a Roma, senza i fratelli Zappa Costa, che comunque incontra lo stesso perché schierati col civico Alfio Marchini, candidato a Roma, senza più Daniela Santanchè, impegnata nel lancio del libro, senza più Vittorio Feltri al giornale, anzi Paolo Berlusconi ha brindato l'uscita dell'illustre giornalista, nostro collega oggi tornato a Libero, auguri, senza più Isandro Bondi, l'Emanuela Repetti, senza più i Claudio Scaiola, gli Angelino Alfano, pur con Renato Brunetta ancora al fianco, il cavaliere Silvio Berlusconi resta il miglior Viagra di tutti i sondaggi. Forza Italia registra infatti uno 0,6% in più. Si recuperano i consensi, forse anche tra i consensi c'è il voto di Emilio Fede, perciò anche noi, voi, tu, lei, noi, voi, cantiamo la canzonissima, quella di Povia, che a partire da oggi, tu, lei, voi, noi, manderemo a memoria. E perciò il religioso silenzio l'ascoltiamo e faremo un karaoke da partire da oggi, ogni giorno. Vabbè, Pietrangelo è molto variegato nelle sue posizioni, i suoi amori cambiano, insomma, bravo. Ma fermo in realtà, divertente. Non è così. In realtà divertente. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì. Ha colpito ancora. Ah sì, è sempre lei. Senti. Allora, Viola Giovanni. E i Beach Boys, vabbè, io sai, obbedisco quando la guerrera mi dice no, ma bravo. Con quel far dolce la mattina arriva. Sai, facciamo questo, boom. Vabbè. La Germania rallenta la produzione, però Draghi è amato da chi compra casa in Germania. Tu dirai, ma davvero? Sì, perché è vero che la produzione tedesca è andata giù nel mese di marzo, meno 1,3, secondo mese consecutivo. Qualcuno dice la ripresa è a rischio, ma sai, in questi mesi la ripresa ha sempre fatto un po' in jacuzzi style, dicono. Cioè su, giù, su, giù, non c'è mai, diciamo, il decollo verticale. Però i dati sugli ordinativi di marzo sono buoni, quindi si prevede un recupero anche interessante nei prossimi mesi, a quanto pare. Vediamo. Nel frattempo i tassi a zero di Draghi stanno producendo, questo è interessante secondo me dal punto di vista del cambiamento sociale in certi paesi europei e quindi in Germania in particolare, un cambiamento molto grande, perché i tedeschi che non hanno mai acquistato casa, spesso solo il 53% dei tedeschi ha la casa di proprietà, in Italia questo dato sale all'82%, per dare un metro di paragone. Ebbene, le vendite di immobili sono salite notevolmente, i mutui sono aumentati del 22% e quindi casa, casa, dolce, sì, casa. I prezzi delle case dei tedeschi sono aumentati del 30%. Tutto questo in Germania ovviamente ha un'altra faccia della medaglia. Quindi tassi negativi o a zero di Draghi hanno facilitato, diciamo, il mercato dei mutui e della casa. Certo. Dall'altro però ne hanno alzato il valore, e siccome comunque nel costume dei tedeschi non c'è l'idea generalizzata di essere proprietari, sì, questo probabilmente innescherà una bolla dei prezzi. Vedremo. Canzoniere. Quando l'urgenza ci costringe a pronunciare il vero, cade la maschera e si appalesa l'uomo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, chi indovina chiami. Pubblicità. Mix 24. L'Italia ha finalmente il suo impero! L'impero fascista! Perché porta i segni indistruttibili della volontà e della potenza dell'Imperio Romano! 7 mesi di combattimenti con un uso spietato di armi chimiche fino all'entrata ad Addis Abeba, poi a Roma la proclamazione dell'impero in una piazza Venezia straripante di una folla in tripudio che acclama il duce. La creazione dell'Africa orientale italiana regala al paese l'ultima fetta del continente africano trascurato dalle grandi potenze coloniali europee. E ancora, tra sfilate trionfali e proclami eroici, Mussolini cancella l'onta della sconfitta di Adua del 1896. L'impero di Argilla, 9 maggio del 36, 80 anni fa, comincia l'avventura coloniale dell'Italia fascista. I documenti segreti, i protagonisti, il prezzo della vittoria, qui a Mix 24, i gialli della storia dopo il giornale radio. E intanto continuano a scriverci, Mario, sulla tua storia dei tedeschi e le case, che comprano le case. Emiliano ci dice, in Germania non compreranno le case, ma vengono a comprare in Italia. Da me a San Felice Circeo comprano tutto loro a 2 lire. Bene, abbiamo Nicola. Nicola, da dove? Da Nicola? Milano, da Milano, per il canzoniere. Nicola, sì. Buongiorno. Buongiorno signor Giovanni. E dunque Lucrezio, dal De Rerum Natura. Giusto, bravo. Bene. Bravissimo. Che fa di bello? Mamma leggeva spesso, insegnava scienze naturali al liceo scientifico. Anche lei? Sì, sì, mia madre. Sì. Io no, io sono ingegnere in pensione. E insomma, in quella fase della vita che Seneca definiva di ozium, e quindi c'era dopo. E le piace l'ozium della fase della vita o no? Ah, certo, moltissimo. Sì? Sì. Sto ripercorrendo tutta una serie di passaggi letterari e scientifici che mi hanno appassionato. Molto interessante. Ecco, anche Elena da Napoli. Grazie, auguri anche Elena da Napoli. Aveva indovinato Lucrezia del Dererum. Natura, c'è ancora una bolla? Posso dire una bolla? Questo signore mi ha innescato una cosa che mi è successa ieri, bellissima, la racconto. Sono andato al negozio di animali a comprare del cibo per il mio gatto. No? Allora, gli dai la pasta che ti resta? Anche, però gli compro anche della verdura apposta perché deve crescere. Vabbè, ok, bene. Allora sto gatto. Allora, no, ma la cosa a un certo punto la signora che stava davanti aveva il computer aperto e su un foglio annotava delle formule matematiche. Sì. E l'hai fatta arrestare. Aspetta, le ho chiesto cosa sta facendo? Mi ha risposto: un corso di fisica. Aveva delle formule di fisica. La cosa mi ha veramente incuriosito. Le ho chiesto di più. Insomma, questa stava leggendo tutto. Teoria della relatività. E comprava il cibo per i gatti. No, era la signora proprietaria del negozio. Quella che vendeva. Quindi il sapere, anche in un'età più avanzata, è fonte di gioia. Allora mi sono ricordato molto bello, cosa. Molto bello. Vuoi una notizia? Vuoi una notizia? Sì. Sentiamo prima. No, non ce la facciamo. Siamo in ritardo. Yeah. Adesso col professor Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. Journal of Physiology, febbraio 2016. L'esercizio aerobico, ma non quello contro resistenza, favorisce la neurogenesi dei topi. Qualcuno ha detto se si potesse mettere l'esercizio fisico dentro una pillola sarebbe il farmaco più venduto al mondo, perché è certo che l'esercizio è un toccasana ed è un vero curatore di un mucchio di cose, dall'ipertensione ad alcuni tipi di cancro. Ma quale esercizio è migliore? Noi sappiamo che abbiamo l'esercizio aerobico, l'esercizio anaerobico, l'esercizio contro resistenza, quello dei culturisti per capirci. E allora i ricercatori sono andati a vedere perlomeno qual è l'esercizio migliore, almeno nei topi. E quindi hanno sottoposto questi simpatici animaletti a esercizio aerobico oppure a esercizio ad alta intensità anaerobico, a esercizio contro resistenza, sollevamento pesi, spingere un muro, e il quarto gruppo era quello dei sedentari. Gli unici che hanno avuto un effetto con una attività maggiore dell'ippocampo, che è una specie di centralina regolatoria del nostro cervello, certamente per esempio si hanno delle lesioni in caso di Alzheimer tipicamente nell'ippocampo, bene, i topi che avevano fatto esercizio aerobico erano quelli che avevano l'ippocampo più attivato, l'ippocampo dove c'era una neurogenesi, cioè una nuova nascita di neuroni. A pensare che tra tutti i vari tipi di esercizio, quello aerobico, la tradizionale e semplicissima corsa, è quello che può aiutare di più anche il nostro cervello, non solo le nostre ossa e i nostri muscoli. E per chiudere sentiamo cosa ha scelto Gloria Guerrera oggi. Oggi una canzone per chi con la luna di maggio è un calessino per compagno, si pone un'eterna domanda. Hop hop, trotta cavallino, Natalino 8. Che cosa dirò? Che mai le dirò? Se lei tacerò, che cosa farò? Non so, non lo so. Hop hop, trotta cavallino, hop hop, corri mio morello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Vecchio calesino che conosci il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faccio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio calesino per portare a passeggio questo cuore.